Il mio nome è Don Gadi, MVP. Lo ricordi, sì, zii, ascolta qui. G-O-W-T-M-C. Più cattivo di quello che pensi. Sono quello che inganna i tuoi sensi. Cosa vuoi che la tua tipa pensi? Se non vieni da giorni lo senti. Sono io che gli regalo i più intensi. Vita da re, senza cachè. C'è con nove soluzioni e spacca dead. Massiccio roccia, questo è dead. Per poco salutare come un Big Mac. Non stop, il flow, spingo da un top. Ti riflessi di una vita sul tuo iPod. Nelle tue cuffie un suono va. La voce per chi non ce l'ha. Quello che tu non hai, tutto quello che vuoi, le cose che giorno dopo giorno sognerai, non le riceverai, dovrai lottare poi, niente sicuro, non sempre ottieni ciò che vuoi. E questa vita qua, veloce se ne va, dai primi passi ad oggi senti la fatica, ma tu ce la farai, senza montarti mai, non importi i limiti, tanto già la vita è così. Perché per noi niente è accessibile. Per quelli come noi è difficile anche sognare per sopravvivere. Lo so, io no, non cederò. Un giorno o l'altro salirò. Sarà per te che riuscirò. Sarà per quello che non ho. Una vita di sogni, una vita di stenti. Una vita che lascio, una vita che prendo. Una vita che sogno, ma sono disegni. La vita che vivi, è quella che vendi. È quella che vendi, è quella che vendi. È la vita che porta i suoi mali sui pegni. È quella che vendi, è quella che vendi. È la vita che vivi, è quella che vendi. Quello che tu non quello che vuoi, le cose che giorno dopo giorno sognerai, non le riceverai, dovrai lottare poi, niente sicuro, non sempre ottieni ciò che vuoi. E questa vita qua, veloce se ne va, dai primi passi ad oggi senti la fatica, ma tu ce la farai, senza montarti mai, non importi i limiti, tanto già la vita è così. Quello che tu non hai, tutto quello che vuoi, le cose che giorno dopo giorno sognerai, non le riceverai, dovrai lottare poi, niente sicuro, non sempre ottieni ciò che vuoi. E questa vita qua, veloce se ne va, dai primi passi ad oggi senti la fatica, ma tu ce la farai, senza montarti mai, non importi i limiti, tanto già la vita